Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eh sì, siete collegati con il Groove Master Studio di Radio 24 per il consueto appuntamento del soundcheck, ovvero la prova del suono, il suono della musica di Radio 24. A tutti voi buonasera da Gegè Telesforo e buonasera al nostro Francesco Tromba, che è tornato molto carico sempre quando si parla di musica. Ciao a tutti. Eccoci qui. E vorrei andarvi subito a introdurre il nostro ospite, anzi il primo ospite di questa stagione 2015-2016. Sono molto contento di ritrovare un caro amico formidabile, appassionato di musica, prima di tutto passione che gli serve per poi scrivere di musica, perché da sempre è uno dei più apprezzati giornalisti e critici musicali del nostro paese, nonché direttore editoriale delle edizioni Arcana. Ladies and gentlemen, put your hands together, Mr. Vincenzo Martorella. Bentornato, Vincenzo. Ma grazie, bentrovati a voi. Bella, che bella presentazione che mi hai fatto. Hai visto, potrei fare molto... questo lavoro, anche questo lavoro. Potresti Senti, farlo, Vincenzo, subito una domandina per te prima di partire con la musica. Allora, già è difficile... venderla la musica, vendere i CD, far girare, promuovere la musica nel senso vero del termine. Quanto è difficile promuovere letture che riguardano la musica? Oh, bella domanda. Moltiplica. Grazie. Moltiplica per 100. Ah, che la difficoltà, ecco. Io direi che è moltiplicabile per 100, anche se, ma ne parliamo dopo magari, ti devo dire che c'è qualche piccolo segnale di risveglio, perché anche nei libri, come nella musica, se c'è la qualità, il lettore arriva. Se la qualità non c'è, il lettore non lo troverai mai. Ecco, qual è il segreto per un libro di successo per quel che riguarda la musica? Dunque, che cosa funzionano? Sì. Le biografie, le autobiografie, le storie, i racconti? Le autobiografie funzionano molto, Gegè, e ne dobbiamo parlare. Di che cosa vuoi parlare? Di un'autobiografia che io vorrei far scrivere a un musicista che secondo me è molto bravo e che ha molte cose da raccontare. Ah, e si ci, chiama ci addirittura Eugenio Telesforo. Sì, sì, va bene. Non so perché, ma ne parliamo. Sì, vanno molto le autobiografie, vanno molto i libri che raccontano storie di musicisti interessanti, anche di musiche interessanti. Deve essere qualcosa di interessante, anche se l'argomento è, come dire, peculiare. Una buona scrittura e un buon argomento interessante tende a incontrare un buon numero di lettori. Qual è il prototipo del lettore di musica? L'appassionato di musica, il musicista? Io credo che si debba trovare una formula per avvicinare anche i profani, insomma. Lettore classico di romanzi potrebbe avvicinarsi. Sì, infatti l'idea è quella di fare una divulgazione molto alta. È pur vero che paradossalmente le librerie sono gli unici posti dove ormai i libri non si vendono, e va fatta invece un'operazione al contrario, cioè piuttosto che fare in modo che il lettore vada in libreria a prendere i libri, bisogna portarglieli, bisogna fargli sentire l'autore che ne parla, bisogna coinvolgerlo in un discorso. Ecco, più che libreria, molte presentazioni e molti incontri, e lì vedi che leggi l'interesse negli occhi. Ecco, io ti voglio far incontrare subito un artista che a noi piace moltissimo. Si chiama Emily King, conosci? Assolutamente no. È una songwriter americana e negli Stati Uniti sta avendo un bel successo, soprattutto fra i musicisti, perché scrive cose molto interessanti, molto raffinata nella proposta musicale. Album nuovo, si intitola The Switch, giusto, Tromba? Sì, esatto. Esatto, e il brano che vi faccio ascoltare è proprio quello che apre questa produzione, con un groove interessantissimo, un tormentone che mi ha preso. Sì, lo dedichiamo a Vincenzo Martorella. Certo, grazie, perché vuoi sapere come si intitola il brano? Come si intitola? Good Friend, un Good buon friend, amico. Yeah. Eccola qui, Emily King al soundcheck di Radio 24. si intitola Good Friend, il buon amico di Emily King, album The Switch che noi abbiamo presentato qui a Radio 24 anche per il piacere di far ascoltare cose nuove al nostro Vincenzo Martorella, che naturalmente da critico, giornalista e appassionato di musica, di discografia ne riceveva in quantità industriale. Oggi invece il volume è diminuito, questo perché le case discografiche sono in crisi e quasi non hanno più materiale promozionale da spedire ai giornalisti, o perché i giornalisti non servono più a nulla. Oh. Per promuovere la musica, scusami, sono fatto così, per Martorella. Per promuovere la musica, in effetti non servono più a nulla. Mm. E questo farà sì che io scateni le ire dei no, miei che amici. Cosa non servono i giornalisti? I giornalisti non servono più, è vero, è vero. Oggi la musica si promuove su altri canali, che sono i social, che è la radio. Meno male, la radio ha riacquistato quella centralità che rispetto alla musica deve avere. Io credo che però la cosa che non mi piace, un po' mi dispiace anzi, è che non esiste più la critica, perché una volta il giornalista accreditato che parlava bene o male di un disco aveva il suo peso per una casa discografica e per un artista. Sì, devo ammettere anche questo. Tu vuoi farmi litigare con chiunque? No, ma no, io sono una persona curiosa e faccio delle domande a un amico. È vero. Allora, questo è un argomento complesso. Sono d'accordo sul fatto che oggi non c'è più una sana critica come c'era un tempo. Non c'è più il polillo che nel 59, quando arriva John Coltrane in Italia per la prima volta, dice: ma chi è questo che suona così male? Si assume la forte responsabilità di quello che dice. Oggi tendiamo un po' a dire che tutto va bene. E questo serve a poco, certo, serve magari a far parlare un po' più di un disco, ma serve meno ad avere un'idea di che cosa si suona oggi nel mondo, è vero. In questo modo, cioè, di conseguenza anche i lettori, cioè io mi pongo anche dal punto di vista del lettore, cioè io quando compro magari una rivista di musica vedo direttamente, no, le stelline o i voti alla fine, che non si usano quasi più adesso, infatti. Sì, infatti non si usano neanche più quelli, leggendo, cioè sembrano le recensioni di qualsiasi disco uguali, cambia solo il nome del disco. Quindi che senso ha fare una cosa del genere? Ma credo nessuno. Credo che non ha più alcun senso. Bisognerebbe ripensarla un po' la critica musicale nel 2015, forse sì. Allora, ti faccio ascoltare un'altra band che a noi piace tantissimo e ci piace da anni. Si chiamano Brooklyn Funk Ensemble, naturalmente band che arriva direttamente da New York. Il brano è molto divertente. Gabriel, Brooklyn Funk Ensemble al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Sono impazzito la prima volta che le ho ascoltate e vorrei suonarle di nuovo. Sono le King, sì, un trio vocale al femminile, naturalmente americane, che ho scoperto 2 mesi fa a New York per merito del mio amico Leo Sidran. E adesso io ti passo la palla, mio caro Vincenzo Martorella, perché questa è comunicazione, cioè far ascoltare delle cose nuove. Avevi mai sentito parlare delle King? Assolutamente no, e stavo cadendo dalla sedia, come hai visto, queste sono delle cose più belle che ho ascoltato negli ultimi anni. Pensa, questo è un brano intitolato Super Supernatural Love, amore soprannaturale, realizzato, brano realizzato nel 2011, quindi ha già qualche anno di vita e un po' si sente per l'utilizzo di certi suoni di alcune campionature, ma pare che, caro Francesco Tromba, che stia per arrivare un album nuovo o un EP, che cosa? È un album nuovo, però ancora non si sa esattamente la data d'uscita, si chiamerà We Are King, che anche se volete trovare le King non è facilissimo, perché se scrivi solo King su Google viene fuori chiunque, dai King Crimson da Emily andate, King, sì, andate sul sito www.weareking.com. Ecco, e chi sono loro? Sono due sorelle? Sono due sorelle, si chiamano Amber e Paris Strother e Anita Bias, che praticamente è diventata la terza sorella perché stanno sempre insieme, vivono insieme. Guarda. Ecco, allora noi vogliamo dichiarare tutto il nostro amore e tutta la nostra incondizionato passione. Incondizionato e sovrannaturale. Meraviglioso, no, ma la cosa bella è l'arrangiamento. Un arrangiamento inizia questo brano con questa melodia affascinante, tipicamente soul, ritmicamente, poi ci fanno entrare questo drumming da Second Line di New Orleans, yes. Anche questa è una cosa insolita per un brano R&B, e poi l'arrangiamento che cresce fino a diventare quasi una un'opera sinfonica. Assolutamente, di grande interesse. Allora Vincenzo, stiamo addosso alle King, cioè davvero stiamo addosso alle sì, King. Stiamo sul pezzo, ecco, stiamo sul pezzo. Teniamole d'occhio e pompiamole a manetta. Vincenzo Martorella, giornalista, direttore editoriale delle edizioni Arcana, nostro ospite per parlare di musica. Intanto per salutarci è venuto qui per farmi una proposta scandalosa, quasi scabrosa, perché è da tempo che mi chiede di scrivere qualcosa per le edizioni Arcana. Io non so che cosa dovrei raccontare a Vincenzo Martorella o a quei pochi lettori sfortunati che potrebbero incappare in questo scritto, però mi sforzerò di inventare qualcosa per te. No, devi farlo, perché abbiamo già il titolo, che è Eugenio Telesforo, carabiniere. Ah, carabiniere Telesforo e Eugenio, quello esatto, ti era piaciuto. No, esatto, con la passione del bebop, non so cosa. Certo. E quando hai il titolo hai già mezzo libro. È mezzo libro, è fatto, libro siamo è fatto. A posto, Tromba. Senti, però l'indice. Tromba mi deve aiutare. Vabbè. Perché oramai in due anni di militanza conosce anche degli aspetti che non vorrei far scoprire a tutti. Sì, anche un po' di aneddoti mi hai raccontato ogni tanto, che sono molto interessanti. Alla fine con qualcuno di importante hai lavorato, no? Nella tua... Beh, qualcuno, un po' di cose le abbiamo fatte. Allora, vediamo, non so se andare alla musica. Sì, perché tu segui le vicende del gospel? Un po' di gospel. Quanto sei gospel? Io sono totalmente gospel. Io, anzi, ti dico questo, Gigi, credo che da 50 anni il gospel è la musica nera americana più importante, solo che noi abbiamo dal gospel quest'idea, no, molto turistica. Bravo. Ma tutti i musicisti più importanti del jazz di oggi vengono dal gospel, e come ho scritto nel mio libro, non ci sarebbe stata la fusion senza il gospel, che è la forma più alta e impressionante di fusione di vari stili. E io sono totalmente dentro al gospel. Ecco, per questo io voglio bene a quest'uomo. Perché la pensiamo nello stesso modo. È che non purtroppo so da bene. Noi non c'è questo tipo di cultura, anche perché la musica che si ascolta nelle nostre chiese, voglio dire le composizioni italiane legate alla chiesa, no, non sono proprio esattamente coinvolgenti. Via, mettiamola così. Ecco, mettiamola così, ma sono soprattutto ritmicamente deprimenti. Cioè, beh, il Concilio di Trento a noi ci ha ammazzato. La Controriforma a noi ci ha ucciso. Andiamo con un campione vero di gospel contemporaneo, che è uno dei miei preferiti, perché per quanto poi non sia un cantante, è proprio un compositore direttore, che è il reverendo Kirk Franklin, un vero genio che ha riunito intorno a sé grandissimi talenti, un organico poi formato da ragazzi che sono stati recuperati, presi dalla strada, con storie anche tristi, magari di tossicodipendenza, appartenenza a clan. Fatto sta che Kirk Franklin in qualche modo li ha recuperati e li ha messi dietro agli strumenti, e fanno paura questi ragazzi. Kirk Franklin, nuovissimo singolo per lui, si intitola Wanna Be Happy. Jesus knows just how you feel. Yes, sir. Just let him take the wheel. The love you need he already gave. But the question is, do you wanna be happy? Took a long time, but I'm ready. I just wanna be happy. Thank you, Lord. Every day, ask yourself, do you wanna be happy? Yes, pull over, let him dry. I just wanna be happy. Sound check. Yes. Il suono della musica. You better set your house in order, or the train may be here tonight. Dopo le strade in diretta e dopo il sound tipico di Indra Riosmoor con Little Black Train, siete di nuovo collegati con il Groovemaster Studio per il soundcheck. Nostro ospite Vincenzo Martorella, che ha iniziato a sorridere quando ha sentito il sound di Indra Riosmoor e mi ha sillabato: sembra Sidewinder di Lee Morgan. E infatti la cosa a me piace molto, perché le nuove generazioni stanno vivendo il presente e quindi anticipando il futuro rifacendosi al passato, che è una cosa bellissima, un atteggiamento tipico dei musicisti di jazz che non dimenticano i grandi maestri. Esatto, frase bellissima che io quasi quasi mi tatuo sul polpaccio, perché è vero, perché è l'unico sistema forse oggi di guardare avanti una certa consapevolezza, perché dimenticare tutto quello che è stato fatto, come è successo negli anni 90, agli inizi di questo secolo, in questa forte tensione al nuovo a tutti i costi, ha prodotto ogni tanto qualche stortura, ha prodotto delle visioni estetiche spesso confinate in ambiti piuttosto scomodi. Gli americani, molto più di noi invece, che quel repertorio ce l'hanno nel sangue e al quale non rinuncerebbero neanche se minacciati, non fanno fatica a parlare di hard bop, non fanno fatica a suonare l'hard bop, come non fanno fatica a suonare un buon funky come quello del musicista che tu immagino stia per lanciare. Eh sì, una brava vocalist che è tornata dopo alcuni anni di assenza. La cosa che abbiamo notato in queste due stagioni di Soundcheck insieme al nostro Francesco Tromba è che anche gli inglesi stanno spingendo molto, forse più sulla sperimentazione, forse si lasciano un po' più andare con la creatività. Questo perché i nuovi artisti stanno scavalcando le barriere della distribuzione discografica, lasciandosi andare con la creatività, utilizzando quindi, che ne so, Bandcamp o SoundCloud. Al contrario, gli americani sono forse più legati al passato e alle loro radici, che sono fortissime nel blues, nel soul e nel ecco, gospel. Una anche cosa da musicologo, fra virgolette, lo dico, no? È che il periodo più nero per la musica, secondo me, è quello che abbiamo vissuto negli anni 80, cioè quell'utilizzo smodato e anche un po' volgare di alcune tastiere analogiche e di batterie elettroniche, che hanno involgarito anche delle belle composizioni. Io sento che quella musica è improponibile oggi nelle radio, alcuni lo fanno, però a me vengono i brividi, mi si accappona la pelle, mi sento male e a volte ho anche dei conati. Di vomito, esatto. Di vomito. Però Giorgio, qui da musicologo rispondo. C'era una cosa molto interessante in quegli anni, ed era proprio il fatto che questi strumenti però al tempo stesso creavano suoni completamente nuovi. Cioè negli anni 80 quella musica aveva un suono totalmente innovativo, sì, che è invecchiato subito. È invecchiato però subito. Era un suono completamente nuovo. Ma da musicologo io ti faccio una domanda: come mai invece non sono invecchiati i suoni del Rhodes Fender, del Wurlitzer o di una Fender Stratocaster, strumenti che hanno segnato gli anni 70? Perché non sono sintetici? Perché non sono sintetici. Vedi perché io vado d'accordo con quest'uomo. Andiamo d'accordo. E allora senti Terry Walker, il brano si intitola Open Your Mind, anche lei si rifà al passato, qui però il groove è forse più vicino al James Brown del primo periodo. Che a noi ci piace. A noi piace il primo periodo di James Brown. E allora guarda, mi metto le scarpe di vernice e mi metto a ballare. Eccola qui, Terry Walker al soundcheck. Thank you. Soundcheck, il suono della musica. Puntuali dopo l'informazione di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio per il Soundcheck, la prova del suono, nostro ospite Vincenzo Martorella, giornalista, critico musicale, un tempo critico musicale, voglio essere preciso, l'abbiamo ancora oggi, fai qualche critica? Sì. Beh, ma scrivo i miei libri, quindi insomma. Ecco, quindi rischia di prendere mazzate dalle case discografiche e dagli artisti, però l'ha detto prima, di solito si parla bene degli artisti, se vuoi parlare male è meglio non scrivere. Esattamente. No? Questa è la tecnica. Purtroppo sì. Però il lavoro vero e proprio è quello di direttore editoriale delle Edizioni Arcana, quindi abbiamo già parlato di quanto può essere oggi importante un libro che racconta la musica o un artista e quanto è importante ascoltare musica tutti i giorni. Questo te lo chiedo soprattutto per uno che fa il tuo lavoro, ma anche per il mio. Se io non ascoltassi musica tutti i giorni, certamente invecchierei, ma anche fisicamente. Certo. Ed è quello che sento un po', lo posso dire, alla musica italiana, alla musica leggera italiana. Secondo me gli artisti italiani non ascoltano musica, ascoltano soltanto quello che suonano loro o i colleghi, per capire dove sta andando il mercato. Secondo me ascoltano molto spesso solo quello che fanno loro. Perché abbiamo questa idea, siamo un po' come dire raccolti su noi stessi, ma questo capita anche ai miei colleghi, i quali non tutti leggono cosa scrivono gli altri o si tengono informati sulla massa di libri che escono negli Stati Uniti quasi ogni giorno, libri spesso fondamentali che ci insegnano a raccontare di nuovo le storie della musica, per cui sì, abbiamo questa tendenza a essere autarchici, il che non va mai bene. Noto che i cantautori, soprattutto della nuova generazione, songwriter e le giovanissime band, si rifanno un po' come gli americani al passato, quindi al sound italiano degli anni 70, però senza la creatività che invece contraddistingue gli artisti contemporanei inglesi e americani. E in Italia negli ultimi anni, anche da un punto di vista discografico per le vendite, lo noto su iTunes, seguendo tutte le vicende che riguardano le pubblicazioni recenti, il rap italiano sta andando molto forte. Ci sono molti protagonisti, alcuni anche di fama per la loro esposizione televisiva, certo. Fanno concerti affollatissimi, però la loro musica io non la trovo all'altezza dei rapper contemporanei, di quelli di nuova generazione. Cioè ci manca qualcosa. E non faccio non è una questione di testi, no? I testi possono essere più o meno belli, più o meno importanti, ma ne faccio proprio una questione di musica, di arrangiamento. Per esempio Kendrick Lamar. Vabbè, Kendrick Lamar, qua tu spari sulla Croce Rossa, perché lui è un genio intanto. E lui, come esponente di punta di una nuova ondata di musicisti americani, ha fatto e sta facendo quello che io pensavo sarebbe successo prima o poi. E cioè, quando i rapper avessero imparato a usare gli accordi, ci avrebbero fatto il mazzo a tutti, cioè il mazzo a noi del jazz, insomma. Magari non li usano bene gli accordi, però hanno il buon gusto di utilizzare musicisti. È musica che armonicamente ha una tale varietà e un'ampiezza, non è più il rap suonato su una sola nota di basso. Hanno introiettato la dimensione armonica e lui, D'Angelo e altri stanno facendo la musica del futuro. Ma oltre a questo, dal punto di vista musicale, cioè questo disco è completamente immerso nella realtà attuale degli Stati Uniti, tanto che stiamo parlando di To Pimp a Butterfly, sì, di Kendrick Lamar. Esatto. Cioè tanto che in una manifestazione a Cleveland contro appunto le violenze della polizia c'era la gente che cantava una canzone di Kendrick Lamar, cantavano All Right di Kendrick Lamar, quindi oltre ad essere un prodotto validissimo dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista sociale, pregnante. Ecco, allora Kendrick Lamar lo possiamo considerare una sorta di bopper della parola, contemporaneo. Ben detto. Che ha il buon gusto di utilizzare per le sue produzioni, che sono anche produzioni care, costose, studi eccezionali, i migliori musicisti della nuova generazione gospel e jazz. Tant'è vero che in questo album, l'abbiamo detto anche qualche giorno fa, c'è la partecipazione di Kamasi Washington, di Robert Glasper. Molto spesso in questi album ci si ritrova anche Roy Hargrove oppure Lala Hathaway, insomma gente che fa musica a grandissimi livelli. Allora, per darvi un esempio di quello che ha combinato Kendrick Lamar in questo album, To Pimp a Butterfly, il brano che vi presento è Complexion. Attenzione, l'arrangiamento è veramente complesso. I'm with this complexion. Two steps, two steps. Complexion don't mean a thing. It's a solo line, line. Ooh, complexion. Two steps, two steps. It all feels the same. It's a solo line, solo line. Soundcheck. Il suono della musica. Connor, una composizione portata al successo diversi anni fa dai Radiohead, quindi una band, potrei definirla una band rock? Beh, insomma, più o meno. Beh, sì, il suono è senz'altro più rock, quello dei Radiohead, rispetto a quello di Robert Glasper, che con il suo pianoforte e il suo trio rende un omaggio a una delle sue band preferite con un sound tipicamente jazzistico. Registrazione effettuata quest'anno al Capitol Studios per questo album dal titolo Covered, ovvero Robert Glasper si è divertito a improvvisare su alcune composizioni a lui care con il suo trio, Vincente Archer al contrabbasso, Damien Reed alla batteria, con i quali poi ha affrontato alcuni concerti anche nel nostro paese l'estate scorsa, un'estate piena di musica in Italia, e Glasper è approdato a Umbria Jazz naturalmente, e poi una bellissima performance al Locus Festival a Locorotondo, che secondo me col tempo sta diventando uno dei festival più interessanti e anche fra i migliori da un punto di vista organizzativo. Una grandissima organizzazione, un bellissimo cast quest'estate, molto interessante. Sì, sì, non c'è dubbio, non è un caso che mi pare che l'unico concerto in Italia di Loran Vula sia stato proprio lì al Locus Festival due anni fa, e quest'anno hanno avuto Bilal, e comunque Bilal, la direzione appunto, artistica, esatto, alla quale io faccio i miei complimenti e tutto il mio affetto, e mi associo, ecco, puntano proprio sul contemporaneo, questo sound che sta a cavallo fra la tradizione jazzistica, l'R&B e le nuove sonorità, quindi complimenti al Locus Festival. Sì, bravi, ed è questa la cosa che mi piace, cioè musicisti come Robert Glasper, che sono onnivori musicalmente, molto preparati sul piano forte, nel caso di Robert Glasper, che rivisita i Radiohead. E poi ci stanno altre nuove leve, come Lauren Desberg. Conosci questa ragazzina? Assolutamente no. Questa è un'allieva di Gretchen Parlato. Ah, la nostra cara Gretchen. Giovanissima, quanti anni ha? 23. 23. 23. E ti piace, perché stai... lo vedo dall'espressione, stai sorridendo. Sì, è bravissima ed è anche un'ottima fotografa. Quando stava alla Berkeley faceva le foto ai suoi colleghi, che spesso utilizzavano come copertina dei dischi. E tu come fai a saperlo, però, Francesco? Come fai a saperlo? Basta leggere un po'. Lui fa gossip musicale a alti livelli. Gossip gospel. Sì. E alla Berkeley la signorina Lauren Desberg era famosa perché, se usciva un gig all'ultimo minuto, tutti chiamavano lei come cantante, perché pare abbia nel suo carnet pronti tipo 200 standard. Come dovrebbe essere per un buon cantante del jazz? Lei li conosce a memoria, tutti a memoria. Certo. E quindi anche lei fa questo tipo di operazione. Album nuovo. Recupera una vecchia composizione dei The Whispers intitolata Rocksteady, ma questa è una versione molto molto spinta e interessante, anche ritmicamente spostano gli accenti. Sentiamo, e lei sentiamo. Però si muove con grandissima naturalezza, come fanno le cantanti preparatissime di oggi. La vuoi sentire? Assolutamente sì, dai. Vai con Lauren Desberg qui al Soundcheck di Radio 24. that you stole my heart. You were all that I anticipated. I wanted you, every part. But I knew that would be complicated. I began to touch, you wouldn't let it. It never seemed to be the right time. I started to give up, down to the limit. And then you changed your mind. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. But please forgive me, there'll be no more tears. Straight someday, I promise. You just gotta give me a little time, but there will be no more tears. Eh sì, tanto per ricordarvi che il 30 di settembre sarà in Italia per un'unica data, concerto al Blue Note per Sacial, ovvero Sacial Vasandhani Slow Motion Miracles, il titolo del nuovo album per la Oki della Sony, brano proprio quello di apertura di questa produzione intitolata No More Tears, quindi non più lacrime per Sacial Vasandhani, che senz'altro ha pianto durante qualche lezione presa da Cartelling, che pare sia abbastanza tosto come insegnante. Che ti pare di... Che ne pensi di Sacha? Ma lui è semplicemente una delle migliori voci maschili del canto jazz, assieme a David Lynx o a Theo Blackman. C'è un altro cantante molto bravo che ho qui davanti a me, però so che lui non vuole essere considerato. No, non voglio essere considerato. Infatti, no. Però, Giorgia, scusa, tornando al brano della brava signorina 23enne... Lauren Desberg. Lauren Desberg è un pezzo fantastico, cioè pazzesco. E mi scappa di dire che anche in altre cose abbiamo sentito oggi si sente l'influenza di due grandi numi. Una c'è ancora, che è Björk, sì, e l'altro, sì, che non c'è più, che è Joe Zawinul, i cui movimenti armonici hanno fatto scuola ormai. Assolutamente sì, quindi lo ricordiamo, Slow Motion Miracles, il nuovo concerto di Sacial Vasandhani, unica data a Milano il 30 di settembre, e possiamo anticipare che forse riusciamo a intervistarlo? Magari, sarebbe una gran cosa. Ho preso appuntamento per la prossima settimana, vediamo se si sveglia, se si sveglia in tempo, magari riusciamo a fargli dorme, lo so. Lui? Sì, perché lo conosco, ci siamo stati a New York insieme qualche mese fa e dorme fino a tardi. Sì, va in giro, fa danni, poi è un bel ragazzo, canta bene, quindi puoi immaginare poi che cosa combina dopo le serate nel club a New York Sacial Vasandhani. Quindi lo dico anche alle ragazze italiane, attente. Andate a seguire, però bel ragazzo, bravissimo, brava persona. Però state molto attenti. È un signore, ma state attenti. Ora, parlando di voci, io ti lascerei... Ecco, questa incombenza, che poi è solo un piacere, perché quando parliamo di bravi cantanti e di belle voci diventa tutto più facile, perché stiamo per presentare una voce italiana, credo che sia in questo momento la mia cantante preferita fra quelle italiane. Dunque, stiamo parlando di Daniela Spalletta. Dunque, io devo raccontare questo episodio. Io mi sono avveduto dell'esistenza di Daniela Spalletta mentre ero sul palco della Casa del Jazz. Stavamo facendo le prove per la serata in onore di Enrico Intra per festeggiare i suoi 80 anni. Eravamo tutti lì quando è arrivata Daniela Spalletta, che con il maestro Intra avrebbe suonato un pezzo, e ha cominciato a provare. Io mi sono girato e ho detto: ma chi è questa voce straordinaria, intonazione perfetta, prodigiosa, perfetta. Fraseggio pieno di senso. E la sera stessa ho ricevuto il disco dall'Alfa Music, e Daniela Spalletta, come dicevi tu, Gegè, è oggi una, mettiamola così, va, sì, una delle interpreti più brillanti di una tradizione del canto jazz in Italia femminile, sì, che ha dato risultati molto importanti, sì, che vanno da Maria Pia De Vito, ma anche Tiziana Chiglioni, fino alla nostra Roberta Gambarini e Ada Montellanico, certo, e ce ne sono tante altre. Daniela Spalletta ci sembra possa essere il futuro di questa di questa nostra idea. La cosa che più ho apprezzato di Daniela ascoltando questo disco, al di là delle sue capacità tecniche e vocali che sono infinite, può cantare di tutto senza problemi, è anche questa sua musicalità che viene fuori attraverso sue composizioni originali, quindi non solo una cantante di jazz che può interpretare standard e cose di jazz contemporaneo di una certa complessità, ma soprattutto un'autrice. Questa è la cosa che ho apprezzato di più, con questa doppia visione musicale, contemporanea e classica al tempo stesso. Esatto. Vediamo due esempi. Il primo brano si intitola The Bird, con la partecipazione di Urban Fabula, trio siciliano, anche loro guidato da Sebi Burgio al pianoforte, con Alberto Fidone al contrabbasso, Peppe Tringali alla batteria e quindi Daniela Spalletta alla voce. Composizione di Daniela, The Bird, di una certa complessità armonica e con melodia con intervalli abbastanza ostici, cantati con grande facilità però da Daniela. E poi subito dopo la pubblicità, dopo Le Strade in Diretta, è il tuo programma preferito, cioè, di Radio 24. Vorrei annunciare, se poi me lo fai annunciare, te lo faccio disannunciare, okay, dopo. Esatto. Allora, Daniela Spalletta con la sua composizione Zara, che ricorda di addirittura una melodia di Ennio Morricone, e qui mi sono proprio innamorato artisticamente di Daniela. Soundcheck, il suono della musica. E come carino c'entra le ciglia, viudo fare che scintillano su fiamme che non temo. Non è una meraviglia, una composizione meravigliosa, un brano scritto, lo ripeto, da Daniela Spalletta, cantante, ma soprattutto per me compositrice, arrangiatrice siciliana della nuova generazione, che aspettiamo quindi qui al Soundcheck Radio 24 per parlarci di questo album nuovissimo intitolato The Bird, tra l'altro realizzato dagli Urban Fabula, un trio siciliano che ha ottenuto già diversi consensi e vari premi, con la partecipazione poi del meraviglioso Max Ionata al tenore in alcuni brani. Daniela, complimenti, ti vogliamo al Soundcheck per parlare naturalmente di musica. Grande talento, grande talento. Siamo ai saluti, mio caro Vincenzo Martorella. Già, siamo arrivati già alla fine. Dovevamo fare anche la riunione di redazione. Adesso la facciamo, una riunione di redazione e con il nostro tromba, che naturalmente avrai notato si è messo ai fornelli. Fatto sta che il sughetto di bava pomodora di mia invenzione, lui lo appesantisce con quei peperoncini che si porta dietro dalla Calabria. Non si appesantisce, si migliora. Ah, si migliora. La mia bava pomodora, famosa in tutto il mondo, la vuoi migliorare con i tuoi peperoncini. Ma la bava pomodora come si fa? Cioè, adesso no, il nostro è ancora un programma di musica. Quando però, fra un po' ci sarà un'evoluzione e diventerà un programma di gastroritmici. Ti piace? Vedi, le cose vengono così. Anche il libro nuovo posso scriverlo, il gastroritmico, no? La passione per il jazz e per la musica. Vabbè, chiudiamo con un altro pianista eccellente fra quelli della nuova generazione del nostro paese. Questo signore si chiama Claudio Filippini. Il pescarese Claudio Filippini. Eh sì, il pescarese Claudio Filippini chiude il soundcheck di oggi con la sua versione di Stolen Moments, cavallo di battaglia di Oliver Nelson, e quindi noi vi auguriamo una buona serata e buona musica, dandovi appuntamento a domani alle 19:15. Ci sarai, tromba? Certo, io ci sono sempre. Bene, Vincenzo, in bocca al lupo. Grazie per la partecipazione, ci vediamo prestissimo. E ora Strade in diretta. No, non è adesso. Ti piace troppo sto Strade in diretta. Io vorrei conoscere lui che diceva. Anche Borsa in diretta.